Sei consapevole del dovere del compito e del fardello sulle tue spalle, dove il tuo storico senso della missione. Come potrai essere un buon maestro? Quanto è forte il tuo senso di comando? Come descriverai il Signore del creato? È davvero il Signore di tutto il creato, il Signore di tutto il mondo materiale. Qual è il tuo piano per il prossimo passo? Quanti stanno aspettando che tu li guidi? Non senti il tuo compito pesante? Queste povere anime son misere, cieche e smarrite. Disperde le tenebre e l'hanno presse per così lunghi anni. Lo braman di giorno e notte, chi lo immaginava? Quando la luce brilla, questi miseri sofferenti sono prigionieri nel buio, senza speranza di libertà. Quando finirà il loro pianto, questi spiriti fragili e senza riposo soffrono per questa grande sventura? Corde crude di una storia sospesa li hanno isolati a chi ha mai udito i gemiti e visto il loro tormento? Hai mai pensato a Dio, al suo dolore, alla sua inquietudine? Come può sopportare l'umanità che soffre? Creato con le sue mani l'umanità è corrotta, infelice, e anche se sopravvissuta fin qui è stata lungo corrotta dal maligno. Ti sei scordato che sei una vittima anche tu? La sua carne e il suo sangue, che ne pensi di essere usato da Dio per vivere una vita straordinaria? Hai abbastanza desiderio e fiducia per vivere una profonda vita di fede, una vita spesa a servire.